breva e ti van, la vela la se sgonfia, il timon l'en di man, faltelena ciara, faltelena scura, una partita d'ama con del ciel che fa pagura. Solti in sull'onda e passe la sina, e il so che tra un pezzet e il tacca tempesta, e il so che in sulla riva e in là tu c'ha prega, e c'ha ben per un mat che il vedo manega, e la barca la d'onda, la barca e la fonda, che bara onda, vesche in mezzo al lac, e là che le balos, e là che il tradis, e il film in lusis. El cielo el tusis. Breva e ti van, i tire nei molen te porten lontan. Varda de scià, varda de là. La spunda la chiama, la barca la va. Solti in sull'onda e passe la sina, e il so che tra un pezzet e il tacca tempesta, e il so che in sulla riva e in là tu c'ha prega, e c'ha ben per un mat che il vedo manega, ma ormai son che in mezzo al temporal. Vives fer di bal, che a me mi piace in sce, e ormai son che in mezzo al temporal. Tu vives fer di bal, che a me mi piace in sce. Breva e ti van. Breva e ti van, breva e ti van, breva e ti van.